sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Melog, cronache meridiane, di Gianluca Nicoletti. Califfato islamico minaccia l'Italia, siamo già a Tripoli, siamo a sud di Roma, proclamano i jihadisti che stanno conquistando la Libia, l'Egitto li bombarda con un raid, arrivata stamattina in Sicilia la nave con gli italiani in fuga, Berlusconi sollecita Renzi per un intervento militare. E intanto dal mare arriva un'ondata di migranti e... Non so se ci siamo mai sentiti un nemico agguerrito così vicino a casa nostra. Sì, ci sono stati momenti nel passato in cui ci siamo sentiti minacciati, ma il concetto dell'essere in guerra è stato per noi sempre percepito come i nostri soldati che partivano andavano verso un territorio dove si svolgeva un conflitto, vuoi con la pretesa di portare la pace, vuoi a tutti gli effetti per fare la guerra. Vorrei sapere questa mattina da chi ci ascolta, può chiamare all'800240024, quanto vi sentite minacciati da quella dichiarazione fatta poi mentre si sgozzano 20 persone sulla riva di una spiaggia di un mare che lambisce anche il nostro paese. Siamo al sud dell'Italia, stiamo arrivando, stanno realmente arrivando, lo sentite come una presenza vicina, sentite il nemico alle porte, siete rassicurati dalle dichiarazioni ufficiali che partiranno i nostri soldati, risponderemo in maniera decisa ma nell'ambito comunque di un accordo democratico. Cosa accadrà secondo voi? 800240024. Eccoli gli italiani rimpatriati dalla Libia, sono arrivati al porto di Augusta nella notte intorno a mezzanotte e mezza. Il primo a sbarcare è un siracusano che fa capire di non poter parlare troppo, ma è il tempo per dichiarare: a Tripoli è critica, c'è già l'ISIS. Si erano imbarcati domenica mattina dalla capitale libica su un catamarano con sosta a Malta, in fuga dal caos e dalla... Gianandrea Gaiani, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te Gianluca e agli ascoltatori. Ci sentiamo a pochi giorni a distanza, parlavamo di qualcosa di divertente giorni fa, oggi parliamo di qualcosa di meno divertente. Ricordo Gaiani è giornalista, dirige il mensile web analisidifesa.it, si occupa appunto di analisi storico-strategica e studio di conflitti internazionali, collabora anche con il Sole 24 Ore. Allora, se questa mattina ti fermasse al bar dove vai a prendere il cappuccino un avventore, dicesse: dottor Gaiani, lei che se ne intende, ma arriveranno fino a noi, cosa risponderesti? È proprio successo. Lo immaginavo. Noi esperti di guerra in questi momenti veniamo subito, siamo molto gettonati. Posso dirti, il rischio c'è, io credo che sia un rischio che abbiamo già tenuto in considerazione, non il rischio che sbarchino e conquistino l'Italia, il rischio che colpiscano a livello terroristico l'Italia. E i nostri interessi di sicuro li colpiscono, ma diciamo la verità, i nostri interessi in Libia ce li siamo distrutti da soli partecipando a quella guerra sciagurata del 2011 contro Gheddafi, che certo non era un santo, ma almeno agli affari teneva e quindi anche agli affari con noi. Cioè noi ci siamo buttati al fianco dei francesi a bombardare la Libia, liberarla dal giogo del dittatore, e oggi ci piangiamo addosso. Luca, tutti ci ricordiamo dell'interventismo di Sarkozy, ma pochi ricordano che i primi raid, quelli decisivi per demolire le capacità difensive delle truppe di Gheddafi, furono lanciate dagli americani, da Obama, che diede spazio a questa resistenza libica e fornì la prima spallata a quella guerra, poi lasciandola combattere alla NATO, agli europei, che infatti ci misero 7 mesi a far fuori un esercito raffazzonato come quello di Gheddafi e uccidere lo stesso Gheddafi. Ma oggi, sai, il dilagare del marchio, in fondo lo Stato Islamico è un marchio che dall'Iraq e dalla Siria, dove si è rafforzato, si sta diffondendo. In Libia erano già presenti gruppi estremisti che hanno adottato questo marchio e stanno avanzando anche grazie ai tanti soldi che hanno incassato, gestendo ormai, i servizi segreti ce lo dicono da tanto tempo, gestendo quel lucroso traffico di esseri umani che l'Italia finora ha sostenuto e incoraggiato, facendo passare da sta frontiera chiunque pagasse il pisto a terroristi, a mafiosi arabi, insomma in qualche senti, modo. Senti, questo numero di 5.000 soldati italiani che andranno in Libia, ma fare che? Quali soldati? Con quale livello di attitudine al combattimento contro persone per cui morire è il primo scopo per cui vanno in battaglia, quindi un nemico che non chi altro che di essere ammazzato, un nemico invincibile? Guarda, io credo che finora si stia parlando un po' a vuoto di questo, nel senso che le dichiarazioni ufficiali lasciano molto perplessi. Prima il ministro degli esteri Gentiloni, che ha usato il termine combattere, era dal 45 che in Italia un politico non usava la parola combattere, l'ultimo credo fosse stato Benito Mussolini durante la Repubblica di Salò. In genere noi parliamo di missioni di pace, di stabilizzazione, non usiamo il termine combattere. L'ISIS, del resto lo Stato Islamico, ha risposto subito alla dichiarazione di guerra di Gentiloni, dichiarando appunto l'Italia è una potenza crociata da combattere e dicendo siamo a sud di Roma. Cioè ti veniamo a prendere parte, praticamente, tradotto. Certo, sì. E poi il ministro Pinotti della difesa in un'intervista ha parlato di un'ipotesi di 5.000 soldati, ma tu hai fatto la domanda giusta, a fare che? Aspettiamo un mandato dell'ONU, i mandati dell'ONU... Ma poi ce l'abbiamo 5.000 soldati, diciamo, addestrati per quel tipo di combattimento? Allora, ce li abbiamo perché da oltre un anno e mezzo, da quando la crisi libica è andata sopra le righe e si è dimostrata come un grande rischio per l'Italia, anche per gli interessi italiani, le forze armate e l'esercito ha tolto da qualunque turno di rotazione nelle missioni attuali la brigata paracadutisti Folgore, mantenendola in riserva per eventuali impieghi d'emergenza. La Libia è ad esempio un impiego d'emergenza. Ma io credo che pensare oggi ad andare in Libia senza un mandato chiaro e poi alleati di chi? La Libia è piena di milizie che si fanno la guerra fra di loro, se non abbiamo le idee chiare su chi è il nostro alleato sul terreno e non abbiamo le idee chiare neanche su quali sono i paesi pronti ad affiancarci militarmente in questa avventura, forse sarebbe meglio fare un'azione, se veramente vogliamo fare una guerra allo Stato Islamico, simile a quella del 2011, allora la facemmo contro Gheddafi, oggi potremmo con forze aeree in Sicilia, la portaerei in Cavour in mare, e unità anche di forze speciali e anfibie per incursioni a terra, condurre azioni molto efficaci contro lo Stato Islamico, favorendo le milizie anti-Stato Islamico libiche che ci sono sul terreno e senza esporre sul territorio libico così tanti soldati che, diciamolo chiaramente, più militari italiani mettiamo in Libia, più terroristi attiriamo da tutto il Nord Africa e il Sahel verso i nostri soldati che diventerebbero gli obiettivi privilegiati di un'azione terroristica. Tu hai tracciato uno scenario plausibile, una portaerei che si sposta verso la Sicilia, dov'è in questo momento la portaerei? Ma io credo che sia a Taranto, nel 2011 impiegammo il Garibaldi, altra portaerei un po' più piccola, per fare queste azioni, lanciare i suoi aeroplani per colpire gli obiettivi dell'esercito di Gheddafi, questa volta potremmo usarla meglio per colpire obiettivi che veramente sono di un nostro nemico e non come in quel caso di un paese che in fondo, di un regime che in fondo era deprecabile ma che era nostro alleato in qualche modo. Senti, quanto è legato, diciamo, il discorso tattico-strategico a, diciamo, il discorso degli scafisti e dei continui barconi che arrivano? A un certo punto dovranno essere gli stessi militari che presideranno quel braccio di mare se c'è una nazione in guerra contro di noi e non si potrà parlare più di missioni umanitarie. Ma guarda, io credo che l'unica cosa che avremmo dovuto fare per risolvere il problema dell'immigrazione così massiccia, clandestina e di chi ci guadagna, e quindi terroristi islamici, criminali, come da tanto tempo ci dico, guarda, già nel 2013 il ministro degli esteri Emma Bonino allora lanciò l'allarme su queste connection legate proprio al traffico di esseri umani. Noi per fermare questa attività abbiamo una possibilità, mettere le forze navali a ridosso delle coste libiche, salvare gli immigrati, riportarli a terra, far passare il concetto che l'Italia non ha le frontiere spalancate per tutti. In questo modo probabilmente scoraggeremmo i viaggi, perché nessuno paga migliaia di euro per ritrovarsi sulla sponda. Quindi avrebbe quasi ragione Salvini che dice non li fate più sbarcare. Sì, io non penso a respingimenti selvaggi, penso a respingimenti assistiti, nei quali chi ha bisogno di cure venga curato, ma comunque non venga fatto arrivare in terra, perché in questo modo noi incoraggeremo flussi di disperati che arricchiranno poi coloro che ci dicono siamo a sud di Roma e stiamo arrivando. Non possiamo essere complici, anche indirettamente e anche per ragioni umanitarie, di terroristi islamici e criminali che con i nostri soldi poi usano i nostri soldi per farci la guerra. Sì, per paradosso il fatto che si sia già cominciato a sparare contro le nostre motovedette è un atto, diciamo, di ostilità che sembra quasi che si appoggi su una sicurezza che di lì a poco ci sarà un appoggio anche militare. Ma è un segnale, io credo che non era mai successo prima che uomini armati a bordo di un barcone e dicessero a una nostra motovedetta, all'equipaggio, caricate gli immigrati ma lasciateci andare. E lo fa, è successo pochi giorni dopo la dichiarazione di guerra, vogliamo chiamarla così, del ministro. Quindi si sentono già in guerra, già si sentono soldati di uno Stato che combatte. Io dico attenzione perché magari il prossimo passo è un abbordaggio di una nostra motovedetta con l'equipaggio e tutto, insomma bisogna stare attenti perché quello è un braccio di mare in cui ci sono tanti destini che si incrociano, quelli di tanti disperati ma anche destini combattenti e che sono pronti a farci la guerra e se non decidiamo di bloccare quell'attività usando la forza militare, non a scopi umanitari ma a scopi di deterrenza, difficilmente riusciremo a uscirne. Cioè, mi sembra di capire a un certo punto, se avere il coraggio di dire siamo in guerra, molti lo dicono già da molto tempo, possiamo fare finta che ancora siamo ad aspettare. Fermo un attimo, sottoporti due telefonate, poi so che tu devi andare. Claudio, buongiorno. Oh, buongiorno Gianluca, scusami, ho un pochino di raffreddore e sono in casa. Senti bene? Sì, sì, dai. Sì, sì. No, niente, io scrivo per un giornaletto qui di Livorno, non voglio fare pubblicità, ma comunque... Che è il Vernacoliere? L'hai detto te. Il Vernacoliere. Vabbè dai, ascolta, va al punto, che vuoi? Ascolta, facciamoglielo fare, perché hanno detto che vogliono cominciare a tirare dei missili sull'Italia, hanno detto che forse ce la fanno ad avere una gettata per arrivarci. Sì. Facciamoli intanto arrivare in Sicilia, in Calabria. Sì, così ripuliscono a ripulire dalla mafia che stanno lì, naturalmente ho scritto mafia. Una battuta al pifo, non mi far perdere tempo. Francesco. Sì, buongiorno. Una volta faccia ridere il Vernacoliere, se questo è il livello delle battute. Francesco. Sì, buongiorno. Senta, io penso che innanzitutto paura per il momento no, abbiamo avuto i missili sovietici su Roma e creano ben altro pericolo. Piuttosto il pericolo c'è ed è forte, ma è diverso. Ed un problema è politico. Sì, ma lì c'è un equilibrio, però lei parla. Sì, ma un equilibrio del Tadore che non c'è, addirittura in qualche momento non c'era lì per saltare, quindi c'era comunque davvero questo pericolo. Non c'è una guerra fredda, non sono dei blocchi che si contrappongono. Qui c'è la guerra, loro stanno facendo una guerriglia. Qui il problema è più politico, paradossalmente, che militare, perché è stata destabilizzata la Siria, la Libia, l'ISIS va in quegli stati e sta destabilizzando l'Africa, sì, e il Medio Oriente. In questo momento il ragionamento sul riporto, se no trasformiamo il dopo partita al bar a tutti i piccoli strateghi. Qua stiamo parlando di una cosa molto precisa, molto concreta, e per questo ho chiamato Gianandrea Gagliani. Mai come in questo momento li abbiamo avuti così attaccati alla nostra coda. Quello che è accaduto in Siria, quello che è accaduto in altre parti, nel Nord Africa, nell'Iraq, sono cose che abbiamo sempre visto con il distacco e il disinteresse di chi relega le notizie che vengono dagli esteri come qualcosa che poco ci interessa. Oggi che è finito Sanremo, che i tre giovanotti del volo primeggiano nel cuore tutte le fanciulle, ci rendiamo conto che però si stanno preparando militari molto agguerriti, molto assatati e molto assetati di sangue ad arrivare comunque sotto il nostro sedere. Cosa pensiamo? Cosa facciamo? Saluto intanto Gianandrea Gagliani, gli interventi non erano di grande spessore, quindi non ti voglio prendere altro tempo, ci sentiamo alla prossima dopo il traffico. Melog, cronache meridiane. L'Italia torna in guerra, oggi titola il giornale. Ho posto questa domanda al mio pubblico, il mio pubblico risponde con battute, con facezie, con paradossi o comuni, quindi non ha ancora la sensazione comunque di avere il nemico alle porte. Non voglio fare il catastrofista, l'allarmista e via dicendo, ma secondo me siamo in una situazione che merita attenzione. Bruno Ballardini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Bruno Ballardini, l'ho lasciato in silenzio ascoltare la prima parte della trasmissione in cui, diciamo, l'esperto in strategie ci dava un quadro, mi sembra sintetico ma è efficace la situazione. Bruno Ballardini, che è un esperto di marketing e comunicazione strategica, ha lavorato lungamente negli ultimi mesi, come poche persone in Italia, nell'analisi delle fonti aperte, cioè dei vari siti web, dei profili su Twitter, su Facebook, quello che gira riguardo a una parte importante di questa guerra, che è l'aspetto mediatico, l'aspetto di appoggiare comunque alle strategie vere e proprie di guerra, strategie di tipo informativo, di tipo propagandistico. Fammi un punto anche dal tuo punto di vista di quello che sta succedendo. Ma dunque, se si tratta di una guerra che comunque è una guerra asimmetrica, Fino adesso loro hanno vinto sul piano mediatico, ma è stata soltanto una guerra mediatica, perché l'ultimo attacco addirittura è arrivato in terra italiana questa domenica stessa. È stata attaccata una scuola fiorentina a Scandicci, hanno oscurato il sito e hanno fatto passare un messaggio, ma questo è un gruppo di hacker marocchini. Come non trovi un po', fa un po' sorridere l'hackeraggio del sito dell'Unione Marocchina Islamica alla scuola di Scandicci? Sì, vanno a casaccio, diciamo che lo scopo è sempre quello di provocare terrore, però se tutto è in mano a una manica di ragazzini hacker, è ovvio che è una arma un po' spuntata, perché fino adesso attacchi veri non ce ne sono stati. Poi un film con 20 persone decapitate, sempre con quella liturgia scenografica sulla battigia, sembra quasi te li sgozziamo come se il loro sangue vi arrivasse fino a noi. È spaventosa, spaventosa ancora questo termine ha un senso. Ecco, la locandina prometteva esattamente questo, perché hanno fatto precedere tutto quanto dalla solita locandina del film con il mare insanguinato qui in Photoshop. Ovviamente mantengono le promesse, tendono a aumentare la dose, perché per mantenere il terrore bisogna anche aumentarlo, perché sennò c'è il famoso effetto assuefazione, no? L'ultima volta che l'abbiamo detti si sono inventati la gabbia di fuoco. Sì, ma è automatico, aumenteranno la dose ancora. Il problema è che loro fanno solo questo. Da un punto di vista militare, io sono perfettamente d'accordo con l'intervento dell'esperto militare. Tra l'altro nessuno dice che se anche mettessero mano a degli scud non arrivano oltre Lampedusa, perché hanno una gittata di 280 chilometri. Allora, quindi... Ma infatti Gheddafi lì arrivò quando provò a sparare un missilino contro l'Italia, no? Esattamente. Quindi il discorso è ancora molto relativo. Fa più paura dell'ISIS le dichiarazioni improvvide dei nostri politici, parlo di Gentiloni e della Pinotti, perché sembrano quasi invitare a un attacco. Certe cose non vanno dette, soprattutto quando non c'è ancora il permesso del Parlamento. Ecco, in termini di comunicazione, mi stupisco che Gentiloni, che viene dalla comunicazione, perché è stato l'uomo di comunicazione di Rutelli, abbia questa imperizia nel parlare. Certo, abbiamo una triade di persone che dovrebbero prendere delle decisioni che ci fanno un po' sorridere, perché sono persone che sembrano antitetiche comunque ad ogni strategia di tipo bellico e militare. Gentiloni, la ministra della guerra, il presidente Mattarella, sono capitati in una circostanza molto difficile per persone che in realtà con la guerra, col gonfiare i muscoli, con dare risposte di tipo militare sembrano molto lontani, e infatti come vedi ci sono dei piccoli, dei gravi errori di comunicazione che possono però in questo momento essere pagati molto cari. Marcello, buongiorno. Buongiorno, salve. Il suo punto di vista? Sì, ecco, come dicevate voi, la guerra in effetti le persone tutti i giorni possono vedere quegli orrori che stanno avvenendo. Ma lei la sente vicino a casa sua o ancora è qualcosa che accade agli altri? Sì, ecco, questo volevo dire. A prescindere che oramai la guerra è vicina, oramai la Siria, ora la Libia, ecco, la guerra è qui. Ma non è una guerra, quello che ci spaventa, specialmente noi cristiani, che abbiamo un punto di vista molto forte per certi versi, è la guerra culturale, la guerra del declino. Cioè, perché i cristiani società, tutto sommato, non hanno paura di morire, per questo. Sì, ecco, questo è il senso, però hanno paura di morire. Farei un sondaggio, onestamente, prima di dare per scontata questa cosa, comunque. Certo. Le dicevo, la guerra che sta avvenendo nella nostra società occidentale è quella appunto della tradizione, della cultura. Cioè, noi vediamo tutti i giorni ragazzi, eccetera, i nostri giovani, eccetera, non avere più ideali. Sì, però scusi, io a tutto c'è un tempo. Parlare di giovani senza ideali, io sto parlando di persone che potrebbero comunque minacciare di fare attentati terroristici, cioè saltare in aria a pezzi. Lascia perdere gli ideali e lascia perdere, in questo momento i cristiani non hanno paura. Siamo realistici. Alberto. Buongiorno senza ideali. Sì. E grazie di avermi chiamato. Sì. Posso? Sì, no, prego, spero che sia un intervento un po' più concreto, perché vedo che... Sì, vabbè, spero. Al di là delle prediche non si arriva al punto, sì, prego. Certo, non va bene, d'accordo. Prima la considerazione molto rapida. Dobbiamo ringraziare di tutto quello che sta succedendo i signori francesi, come dobbiamo ringraziarli per Rustico, dobbiamo ringraziarli anche per questo. E così come gli americani che hanno demolito Saddam Hussein per delle armi chimiche inesistenti. che fossero due delinquenti, si è Gheddafi. Sì, vabbè, rifacciamo la storia. Scusi, no, la storia non ci interessa. Voglio parlare di oggi. Quello che è accaduto, Gheddafi, Saddam, l'11 settembre, fa parte del passato. Michele, vediamo se riusciamo a essere più concreti. Pronto? Sì. Pronto, buongiorno. Sì. Chiamo da Treviso, sono Michele. Ascolti, io non riesco a capire perché quando ci si fa, quando è successo con tutto quello, quell'attentato a Parigi, noi facciamo parte della comunità europea, facciamo anche parte della NATO. Cioè io non riesco a capire come mai siamo così attaccati, anche se verbalmente, però veniamo comunque attaccati, e nessuno di questi nostri paesi alleati dice una parola, oppure ci fa capire a questi dell'ISIS, che comunque è gente senza scrupoli, che almeno c'è un mondo che prima di tutto vi può distruggere in qualsiasi momento. E seconda cosa, sono cose che non sono reali, cioè sgozzare la gente così. Non si può vedere episodi, cioè fatte queste cose qui, cioè, ma a che senso ha? Questi sono animali, ecco. Vabbè, è una sua, un'altra considerazione. Bruno Ballardini, io ti faccio ascoltare telefonate, perché tu, questo è un po' il tuo mestiere, ti fai un'idea media, perché questo è un pubblico che mediamente rappresenta il paese, di quella che è la percezione del nostro paese di quello che sta accadendo. Dammi una tua considerazione. Ma nessuno si chiede mai perché noi non interveniamo. Non interveniamo per il semplice fatto che c'è una fondamentale incertezza strategica da parte degli Stati Uniti, che sono il paese che guida tutta la coalizione occidentale. Non sanno ancora che pesci pigliare loro. E come loro non sanno che pesci pigliare, ovviamente nessuno si azzarda a muovere un dito. Però in tutto questo io credo che sia colpevole altrettanto il silenzio delle nostre istituzioni, perché un minimo di parole di rassicurazione gli italiani sono tenuti a darle. Certo, l'unico messaggio che è passato: prepariamo 5.000 uomini e ci prepariamo a combattere, quando ancora non è ben chiaro chi bisogna combattere, da che parte si sta. Sono un centinaio di persone, cioè una banda armata, stiamo scherzando, 5.000 persone, 5.000 soldati per 100 cialtroni male addestrati che stanno facendo chiasso. Ora, il vero pericolo non è quello, il vero pericolo sono i 4.000 mujahideen che sono entrati dalla Turchia, e i servizi segreti lo sanno benissimo, che stanno sul territorio europeo, pronti, chissà, forse a fare uno swarm attack, un attacco a sciame, questo non si sa. Noi abbiamo paura soltanto della Libia, perché ci svegliamo all'ultimo momento senza capire un accidente, grazie anche ai giornalisti che non ci informano. Grazie Bruno Ballardini, che ci fai un punto attento e informato su quello che sta accadendo. Aspettiamo il tuo prossimo libro con grande attenzione. A presto.